la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, sei solo chiacchiere distintivo. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale inizia a 25 o'clock. Come ogni mercoledì che si rispetti e come annunciato già la scorsa settimana, puntata piena, siamo orgogliosi di aver portato qua in radio per far quattro chiacchiere con noi il consueto cazzeggio di 25 o'clock, razza a parte. Quindi fra qualche minuto daremo la parola a loro. Razza a parte più gruppo fan al seguito, insomma. La clap. Dicevamo, non prima di aver fatto le consuete precisazioni e presentazioni di Radio Onda Rossa, di quel che state ascoltando. Radio Onda Rossa, storica emittente di nome del Lazio, nel 1977 racconta la storia dall'altra parte di quelli e di quelle che stanno dall'altra parte nell'etere di Roma e del Lazio. Radio Onda Rossa c'ha un sito www.ondarossa.info dove potrete trovare ciò che di saliente la radio ha prodotto in termini di audio, quindi corrispondenze, trasmissioni. Redazionali, etc. Dove trovate tutte le coordinate della radio, il palinsesto, la possibilità di ascoltarla in diretta. E tutto questo Radio Onda Rossa lo fa autogestendosi, sia in termini politici sia in termini economici. E autogestione in termini economici significa farlo attraverso il vostro contributo, di voi tutti e tutte che ne condividete il progetto. Sempre sul sito, quindi andando su Sostieni, sarà possibile trovare tutte le coordinate per poter sostenere questa emittente, quindi PayPal, eccetera. Invece quello che ci preme dire è la forma canonica, quella classica, quella che sappiamo a memoria. E cioè il conto corrente postale di Radio Onda Rossa 61 80 40 01. Da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Volsci 5600 185 Roma San Lollo. Se volete mandare i vostri, mentre trilla il numero che fra poco vi diciamo, se volete mandare le vostre comunicazioni alla radio, ondarossa@ondarossa.info il numero, l'indirizzo della redazione. Diversamente 25 o'clock 25 o'clock @ondarossa.info per le mail a questa trasmissione, oppure fantasma@ondarossa.info. Nel salutare il conduttore di Niente da Vende, che oggi penso sia scaricato le scarcerande qua in radio, e che quindi possiamo già dirlo, l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno è qui presente in radio, sarà presente alla SNIA venerdì prossimo con la festa di Radio Onda Rossa, appunto di sottoscrizione, di finanziamento con gli Scasso. E Tribù Acustica. E questo venerdì alla SNIA troverete niente po' di meno che a Scarceranda, ma l'ho già detto, eh. Meglio ripetere. Meglio, sì. È un detto latino, ma non lo diciamo perché non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Siccome insomma abbiamo ricevuto una comunicazione da un ragazziata de banana, vabbè. Entriamo nel vivo. 0649 1750, recapito telefonico, ed eccoli qua. Una razza a parte, appunto. Tutto bene. Buonasera. Ciao. Parliamo vicino al microfono, se no ce la sentiamo fra noi. Io ho un cuffia un po' di ritorno, però da casa difficilmente. Vai. Buonasera. Buonasera, tu sei? Io sono Flavio. Flavio, che suoni? Io canto. Canti, canto. Perfetto, vedi. Già subito ho fatto il primo errore. Vai. Io sono Stefanino. Però aspetta, ti devo alzare il microfono, vai. Ok, quindi vi so sempre Stefanino e sono sempre la chitarra. Il secondo errore con la seconda. Vai. Perfetto. Errori. Cosa cambi? Ci saranno tanti, immagino, parte nostra. Ok. Sono Angelo chitarra. Angelo chitarra. Va bene. Razza a parte, band storica, possiamo dire, da che anno suonate, penso? 95. Primissima formazione. Primissima, sì. Formazione, più o meno siete rimasti gli stessi, sono già avuto da quel giorno. Allora, della primissimissima, io e Massimo, della prima reale che ha suonato dal vivo con il nome Razza a parte, io, Stefanino e Massimo. Ok. Che proviene da Viterbo, dalla ovviamente Duscia. Dalla Duscia. E a quanto possiamo, così proprio per indicare la scheda produttiva, una delle band comunque, malgrado appunto i soliti e normalissimi appunto alternarsi alle varie posizioni insomma sul palco, una delle band più longeve sia del panorama viterbese e più per quanto riguarda le pancoi band, penso pure a livello nazionale, insomma. A livello nazionale, con più di 20 anni attività, credo ci siano soltanto i Classe Criminale. Mo, potrei sbagliare. Beh, forse però in Abbat, dai. Sì, però se so gruppi che non hanno mai smesso. Sempre in esercizio, sì, insomma. Comunque, questo me ne va dato merito, insomma, una bella durata. Il resto no, però questo è. No, niente, quindi dal 95 come vi siete incontrati? Come è nato il progetto Razza a parte? Il progetto grosso modo è nato a scuola a ricreazione, perché c'era il primo batterista che era il mio compagno di banco, Massimo, che stava in un'altra classe ma era un amico, e è nato a ricreazione praticamente il gruppo, però più a livello di cazzeggio, e c'avevamo un altro nome all'inizio, Slag. E poco tempo dopo abbiamo deciso che volevamo fare un po' più sul serio, anche perché si erano sciolti i vari gruppi di cui facevamo parte. È venuto Stefanino, Doddo, il primo batterista che ha suonato dal vivo, e in seguito Fiore, poi Fiore è stato sostituito gradualmente, nel caso di Dita, Angioletto, sì, perché in realtà Angelo suonava con noi. È stato in bandina per qualche anno, è andato ufficiale. Sì, titolare. Adesso la batteria c'è Edoardo, batteristi ce ne abbiamo avuti una marea, potrebbero formare altri tre gruppi, penso. Sì. E quindi, vabbè, naturalmente mi pare di capire c'è comunque una sinergia tra i vari musicisti di Viterbo e dintorni, che sono andati poi ad arricchire nel corso degli anni la storia di Razza a parte. Beh sì, quasi sempre gente della provincia. È capitato con un batterista di Formia, Ermete, Gioventù Bruciata, se no sempre gente di Viterbo, dei paesi limitrofi. E, come vabbè, più tardi lasceremo un po' alla musica la descrizione, insomma, di quello che vuoi fare. E vi proponete come una punk o i band, come vi piace definirvi, insomma? Allora, noi ci riteniamo un gruppo OI, anche se musicalmente in realtà variamo. Poi magari c'è un disco, abbiamo la fissa del folk, andiamo un po' più sul folk, un disco un po' più dub. Ci riteniamo un gruppo OI. Folk di matrice viterbese. Di matrice viterbese, sì. Esattamente, cioè, proprio. Tu voi, sì, c'è, cioè, qualche stornello, sì. Una canzone, qualche ma, canzone tradizionale. Questa cosa, insomma, di cantare in dialetto viterbese che ogni tanto fate, e questa volontà, insomma, di rimarcare le proprie origini è una cosa che mi incuriosiva, ci sto pensando oggi. Una cosa che come dire, forse un po' per orgoglio, forse per mostrare qualcosa. No, nel senso, è una cosa comune della popolazione viterbese, quello di rimarcare le proprie origini, cioè... o è una cosa particolare vostra? Cioè, volevo capire un po' se tra i viterbesi c'è questa volontà, insomma, di... Tutte e due le cose, forse. Un po' dalla parte dei viterbesi, della Tuscia, di rimarcare la propria identità, perché è un'identità che dal punto di vista amministrativo ci è negata, in quanto facciamo parte della regione Lazio, che è una regione che storicamente, culturalmente non esiste, è una regione amministrativa. Poi c'è il discorso mio personale, che faccio ricerche soprattutto a livello dialettologico, per cui tendiamo a recuperare in maniera più o meno propria anche tematiche tradizionali, canzoni tradizionali. Però non è che facciamo soltanto quello, abbiamo qualche pezzo in viterbese, però la maggior parte in italiano. Però ha portato pure freschezza questa cosa, sì. Veramente ha portato anche nel nostro songwriting, oppure sembrava semplicemente stendere i pezzi così anche cioè, noi ci vediamo spesso a stendere i pezzi, però ecco, questa non è una scusa per fare delle cover che magari del tradizionale viterbese, ma semplicemente perché comunque abbiamo riscoperto una cosa bella che forse era il momento forse di tirar fuori. Ok, no, ma mi piace un po' approfondire questo fatto qui. Diciamo, questa cosa qui, poi chi conosce un po' la discografia underground di Viterbo, è emersa poi negli anni, no? Tra i vari sette pollici, compilation, quindi Viterbo Hardcore, Tuscia Hardcore, adesso i titoli non me li ricordo perfettamente. Vabbè, l'ultimo costruito nella Tuscia, è una cosa che è emersa poi negli anni, e che invece c'era comunque all'inizio il fatto di ritrovarsi uniti tutti i gruppi a suonare. Questa volontà, insomma, di rimarcare le origini viterbese della Tuscia è comunque una coronazione delle prime sinergie che c'erano magari 20 anni fa tra i primi gruppi di Viterbo. Allora, all'inizio la scena, diciamo, Viterbo Hardcore si chiamava, che è quella che è andata da metà degli anni 90 fino all'inizio del 2000, c'era gente che ne so, da Gallese, da Capranica, Soriano, c'era gente che abitava intorno, però era essenzialmente una scena cittadina e c'era già questa componente forte. Attualmente quasi tutta la fascia meridionale della provincia è in movimento, nel senso che i concerti ci sono a Vetralla, e c'è gente che viene da Civita Castellana, da altri paesi che prima non conoscevamo, non frequentavamo. Sto parlando della fine degli anni 90 e dell'inizio del 2000. Dalla zona di Bracciano e dintorni. Anche sì, loro sono. Non è provincia di Viterbo, sono nostri amici stretti, e per un certo periodo ragazzi della provincia. Sì, hanno organizzato insieme agli altri ragazzi alla nuova generazione, quelli del Tuscia Clan, hanno organizzato concerti insieme a Vetralla. Noi abbiamo suonato anche prima del Tuscia Clan, di là da provincia abbiamo suonato diverse volte a Manziana, nei dintorni di Bracciano. C'è un legame forte con queste persone. Ok, noi questa cosa qui, insomma, la riapprofondiremo tra pochissimo, e però volevo iniziare a proporre un brano scelto proprio dai Razza a Parte, Disco Servio Ribelli, nel primo album. Primo album. E della. Di... Vabbè, te lo... 2000 mi sembra. Qui 2003 dice, però. Affidiamo. Ok, cioè, carta canto, secondo me c'ha ragione il CD. Secondo me. E quindi hanno scelto la seconda traccia del disco, Servio Ribelli, che è Dietro le sbarre. E come mai avete scelto questo pezzo? È una canzone contro le galere, è un pezzo che abbiamo reinserito da poco nella nostra scaletta dal vivo perché non l'abbiamo suonato per alcuni anni. Siamo dell'idea oggi più che mai che il testo sia valido. C'è una frase che dice: ti danno guardie se chiedi lavoro, penso che questo lo vediamo. Perfetto. Esplicativo, insomma. E loro sono in razza a parte. Questa è Radio Onda Rossa 87.9. Dietro le sbarre. Posso andare? Questa era appunto Dietro le sbarre di Razza a Parte. Quindi ritorniamo un po' all'inizio della nostra chiacchierata. Formazione nata tra i corridoi di scuola, quindi nei momenti più produttivi della scuola. E come mai avete deciso di suonare questo genere di musica? Senz'altro vi piaceva, insomma, però. In realtà vorrei introdurre proprio più una cosa che forse mi premeva a dire. Cioè ci troviamo oggi in una situazione abbastanza particolare in cui ci stanno pogrom razzisti, cioè una situazione da crisi che potrebbe assomigliare proprio alla crisi fine anni 70, inizi anni 80 della Thatcher nell'Inghilterra, nella Gran Bretagna di quegli anni, quando si affermò appunto poi quando il punk virò verso questo street punk, questa musica appunto che conteneva profondamente un disagio sociale, una forma pure di disoccupazione dilagante nella working class britannica, dovuta al fatto appunto che si privatizzavano, cioè a partire da tutti i servizi pubblici alle miniere stesse, quindi un gran numero di pischelli disoccupati che costituivano però la working class britannica. Oggi ci troviamo in una situazione col 40% di disoccupazione giovanile, quindi con una situazione che potrebbe essere in qualche maniera assimilata a quella di quegli anni, della Gran Bretagna di quegli anni. Perché nel 95 invece nei corridoi di scuola dice si mette Massone a lui, cioè la musica dei skinhead della Gran Bretagna della fine degli anni 70. Cioè, beh, la domanda è molto interessante. Il discorso di perché suonare musica voi a Viterbo nel 95 è un po' anche perché essere punk o essere skin a Viterbo nel 95 è un contesto che è molto molto differente da quello dove sono nate queste culture. Per quanto riguarda essere skinhead, che è una cosa che ormai la maggior parte della mia vita l'ho passata, la sto passando da skin, posso dire che per me essere uno skin nel 2014 in Italia, nello specifico a Viterbo, è una cosa molto differente da quello che potesse originare. Per me è vivere comunque la mia realtà, quella che vedo tutti i giorni, nella maniera più possibile dignitosa, con l'amore per la certa sottocultura, però senza voler imitare, senza dirmi cockney come fanno alcuni, o original, che è una cosa che nel 2014 in Italia come cazzo non è original, scusate l'espressione. E lui, lo stesso discorso, lui era nato anche musicalmente, noi non è che abbiamo molti pezzi o i puro o i classico, ci piace l'idea delle compilazioni originali di Gary Bushell in cui c'era il gruppo un po' più hardcore, il gruppo più punk, il gruppo più Herbert, e per voi si intende il punk, quello che è legato più alla realtà di strada, che ripeto nel caso nostro è molto differente da quello in cui è nata la musica originale. E parliamo appunto proprio dell'inizio di questa realtà di strada che c'era a Viterbo nel 1995. Com'era la situazione tra i primi gruppi che suonavano nel 95, inizio anni 90, realtà aggregative? Allora, inizio anni 90, 92, 93 sono viste le prime avvisaglie di quello che poi sarebbe diventata la scena punk viterbese, quindi che ne so, gruppi metal, gruppi, nel mio caso, gruppi crossover e via dicendo. A Viterbo non c'era niente, proprio se tu uscivi a Viterbo alle 8 di sera c'erano soltanto i militari, perché era una città piena di caserme e non c'era niente proprio. Com'era la città delle caserme e delle pizzerie? Come ha detto Capo sul suo libro. Ho studiato. Il libro di Andrea Corsetti, il libro di Capo, dà un'idea molto chiara di quello che era vivere a Viterbo allora. Adesso è noioso, come in queste tre realtà di provincia. Prima era allucinante, nel senso veramente alle 8 uscivi e c'eri tu e basta. Quindi la gente non usciva alle 8, no, il sabato si usciva, se no sì, uscivi e qualche militare faceva un giro. E dove avete cominciato insomma quindi sì. Dovevate tirar su qualcosa. Dovevamo tirar a un su certo qualcosa, punto sì. Qual è il passaggio successivo? Passaggio successivo, si sono formati Razza Parts, si sono formati nello stesso periodo Dirmi Down, che è stato un altro gruppo di importanza fondamentale per Viterbo. Si è formato questo collettivo, tutta gente ci conosciamo da qualche anno, però abbiamo cominciato a fare cose in maniera un pochetto più seria, che è stato Viterbo Hardcore. E siamo cresciuti, poi c'è stata la compilation, ci siamo divisi, ognuno si è fatto un po' gli affari suoi, qualcuno ha continuato con altre attività, ci siamo rincontrati anche grazie alla cantina del Goio, la nuova realtà, perché comunque è stato un nuovo punto di riferimento dopo che per anni a Viterbo c'è stato vuoto. Da quando è iniziato insomma la cantina del Goio? Cantina del Goio quanti anni sono? 5 o 6 anni. È stato un po' il punto di rinascita del cambio di generazione della scena, e si è ravvivato proprio il movimento tutto. Infatti poi con la compilation ho costruito nella Tuscia, di cui parlavi prima, è stato proprio proprio la storia, cioè la storia che è continuato, perciò il cambio generazionale è stato importantissimo per Viterbo, se no finiva lì la cosa. Magari qualche altra cosa ci sarebbe anche stata, però poi si è creata un'altra realtà solida, insomma si è fatta anche conoscere in giro in maniera anche forte, diciamo, e siamo proprio contenti. Qual è stato il momento più duro? Quello degli inizi, quando bisognava ripartire da zero, o poco ci mancava, insomma, voi dirmi down, eccetera, eccetera, oppure nelle varie fasi appunto poi successive, quando appunto poi uno la cosa è abbastanza ingranata, però ci si scazza, le cose normali che succedono, insomma, qual è il periodo che più vi ha di questo percorso, che poi ricopre alla fine 20 anni, qual è stato il momento diciamo più bello e il momento peggiore? Adesso forse il momento più bello? Non lo so, forse sì, tra più belli, però è diverso come viviamo adesso le cose. Sempre divertenti. Gli inizi magari uno è pischello, c'ha 20 anni, quindi è tutto bello, insomma, alla fine, no? Sì, sì. Si fanno con grande... oppure continuare le cose? Beh, momenti belli ci sono stati diversi, adesso non ti saprei dire qual è il momento più bello, grazie a fare. Il momento più brutto, per me almeno, poi gli altri diranno la loro, dopo il 2000, quando si è sciolta Viterbo Hardcore, per cui siamo rimasti un gruppo che magari in giro aveva del seguito, continuavamo a fare concerti in giro per l'Italia, però non c'era una scena locale che ci sosteneva, che per un gruppo, soprattutto per un gruppo OI, che è particolarmente radicato, è vicino, c'è il concetto sempre quello di banda alla fine, di gruppo d'amici, eccetera, eccetera. Non avere una base locale è abbastanza drammatico. Ma invece all'inizio questa base locale, cioè c'avevate dei posti dove vi riunivate, dove il collettivo di Viterbo Hardcore produceva anche pensiero? C'era una sala prove nostra fuori da Valle Faul, che era una grotta, secondo qualcuno una grotta etrusca, non sappiamo se è vero, ma ci piace pensare così in ogni caso. E abbiamo fatto anche qualche piccolo concerto là. Poi come Viterbo Sharp, soprattutto quando si è cominciato a fare un po' il discorso di Viterbo Hardcore, c'è stato il Mulino, che era un circolo larci di un ex skin di Viterbo degli anni 80, e il punto di riferimento è diventato quello. Poi finito il Mulino è arrivato il vuoto per qualche anno, finché non è uscita fuori una nuova generazione, abbiamo organizzato qualche concerto insieme a loro all'Officina, che era un locale appena fuori Viterbo, e poi la scena i nuovi ragazzi hanno continuato da soli, cioè nel senso se... Sì. Centro sociale, Valle Faul. Valle Faul, sì, però per noi sì, è un posto, sì, anche Valle Faul. Cos'è Valle Faul? Era il centro sociale Viterbo, in teoria esiste ancora, anche se adesso non è più nel centro storico, sì, ci siamo parecchi di noi, si sono conosciuti lì, anche è stato una delle cose dove è andata Viterbo a correre, però non è che mi è stato un punto di riferimento, nel senso ci siamo conosciuti e abbiamo continuato a fare. La cosa particolare è che noi ci vedevamo nel centro storico di Viterbo, che era sempre stato appannaggio da alcuni decenni di borghesi, di gente di destra. E com'erano le relazioni tra, che ne so, la popolazione locale e questa comitiva di rumorosi ragazzi colorati di nero? Beh, noi dentro al centro a Piazza delle Erbe eravamo un po' un cazzotto in un occhio, come si dice per parecchia gente. Non eravamo molto graditi, però ce la siamo cavata, andava sempre bene. No, mi immagino un po', cioè ho conosciuto diverse realtà di piccoli paesi, anche iniziative molto piccole, no? Però magari piccole occupazioni... no, mi viene in mente, insomma, vabbè, saluto i ragazzi di Valle Vegan, di Valle Vegan, appunto, che è un piccolo posto che sta a Bellegra, cioè pacifici, insomma, un rifugio per animali che vengono da da allevamenti intensivi, cioè, quindi una cosa totalmente pacifica e buona, insomma. E però questa novità, questo essere diversi, non catalogabili alle forze dell'ordine locali, insomma, crea scandalo. Quindi se vai a visitare questo posto, insomma, se sanno che vai a visitare questo posto, ti fermano, insomma, ti rompono le scatole. No, come erano le relazioni con i ben pensanti, con le forze del disordine? Beh, non buone, anche perché Viterbo Hardcore non era un collettivo politico, però c'era una certa, il 90% delle persone di Viterbo Hardcore si trovavano anche in un collettivo politico, per cui le due realtà venivano anche scambiate. Il punto di ritrovo grosso modo era lo stesso, cioè chi era coinvolto nella musica in genere faceva politica, chi a Viterbo faceva politica a sinistra, diciamo, dei partiti, in genere c'aveva, o ci conosceva, faceva parte di Viterbo Hardcore comunque. Ok. E vogliamo passare un altro pezzo? Cosa avete scelto da. Che altro, ecco, del Drago Leone che ci dice sì. Penso mi piace molto. Vicino al microfono, Angelo. Infatti, sì, lo so. Te l'abbiamo messo proprio. Famo così, ecco, forse così mi senti. Ecco. No, dicevo, un pezzo che mi piace molto, che quando ho cominciato poi a suonare con loro nel periodo in cui mi sono entrato in formazione io, era Non voglio lezioni, un pezzo che invece ha. Benissimo, vai. Giusto appunto. Vai. Allora, Non voglio lezioni, la decima traccia del. Mi sono permesso di sceglierlo io. Oh. Quindi la decima traccia dal Drago e il Leone, disco del, vabbè, lo leggo io, del 2007. 2007. Quindi, razza a parte, vabbè, voi. No, vabbè, noi ce l'abbiamo davanti, insomma, è più facile parlare di questo, però, insomma. Genere decisamente voi, poi all'interno del gruppo. Ci abbiamo anche Angelo, ricordiamolo, chitarrista dei Neid. Quindi una formazione dedica al grind più estremo, se mi permetti la definizione. No, mi interessava questa, cioè come, cioè il cosa vi unisce, insomma. Abbiamo Flavio un po' più dedicato quello che è il movimento skinhead, uno stile di vita skinhead. Cioè abbiamo Angelo che proviene credo più dal metal, Stefanino un po' più dal punk forse. E cosa vi unisce? Cosa vi... No. No, come? Scherzi, penso sia lo stesso discorso di lui, nel senso di persone che si riconoscono in un certo tipo di musica al di là delle convenzioni stilistiche, che poi alla fine lasciano il tempo che trovano, non perché non sia importante la propria sottocultura, ma perché poi bisogna vedere quello su cui ti ritrovi concretamente. No, infatti mi piace appunto sottolineare le cose che ci sono oltre le definizioni, no? Perché spesso magari in una grande città hai più possibilità di trovare gente affine a quello che vuole essere la tua idea musicale, no? Quindi sì. Magari hai un progetto, hai un'idea e più facilmente magari trovi altri componenti che vogliono fare ad esempio grind e fai il gruppo grind. Sì. E magari produci qualcosa di canonico. A me piace tradurre molte volte quello che dice il fantasma in termini molto spiccioli. Cioè, grazie professore. Cioè, però anche molto ironico. Cioè, in una metropoli come Roma, di 3 milioni di abitanti, trovi 10 scemi che gli va ad essere grind o qualsiasi altra sottocultura. Beh, estrema. Grind. Aveva detto che traduceva, infatti. Sì, no? Sì. E quindi trovi in altri 10 skinhead e quindi fai il clan tuo. Una città invece con 60-70 mila abitanti, quanto c'ha Viterbo? 60 mila abitanti, diciamo, lui intendeva dire è più difficile trovarsi 10 scemi, ecco. Sì, cioè naturalmente c'è sto discorso per cui non essendoci a Viterbo 40 skin, 40 hardcore, eccetera, eccetera, tendi a ritrovarti con gente che comunque ha interessi affini, anche se non identici. Penso che effettivamente però c'è pure il fatto a tutti ci piace la musica voi. C'è sto discorso della realtà di provincia, che lo trovo un po' da altre parti, c'è pure il discorso che noi il fetish del gruppo skin, dove sono quattro maschioni, tutti tatuati, tutti, non ci è mai fregato niente, in sostanza. No, ma infatti non è nemmeno un discorso del genere, secondo me. Cioè io quando avevo 13-14 anni che ho cominciato a vedere i primi concerti punk nella città mia, chi mi ci ha portato per le prime volte sono stati i miei tramite, sono stati Flavio e Capo dei Nade, come diciamo. Perciò nel senso, le due band che hai nominato te, cioè ci stanno quelle due persone che comunque per me sono stati un po' il passaggio, no? E perciò non è un discorso del genere, comunque un discorso che comunque era la nostra comunità, eravamo noi, e cioè con loro ci sono già altri, razza a parte intendo, da molto prima che entrassi nei Ned, anche perché poi i Ned sono venuti molti anni dopo, ma non mi sono mai fatto problemi che faccio metal, lì grind o quello che sia, e qui faccio street punk, non è un discorso del genere, cioè siamo sempre stati noi comunque sia, perciò che fatti no cioè, ma quella magari è la forza proprio della scena, esatto. Viterbese, poi fai bello proprio questo, proprio bello anche magari ci siamo salvati tra virgolette tutto questo tempo e ancora siamo insieme, c'è un po' un discorso magari prima cosa di amicizia magari che ci lega, poi la musica, lo stile eccetera eccetera, insomma sì. Forse c'è quell'elemento, sì, quell'elemento che cioè l'ambiente, cioè la strada, il luogo dove comunque uno, dopo che ha fatto le sue cose, andando a lavorare a scuola eccetera, invece torna a casa a chiudersi dentro davanti alla televisione o a chiudersi invece no, cioè va in piazza, va in strada, va al muretto, va nel luogo. E avete scelto un altro pezzo? Al volo? Sì. In teoria. Allora vabbè, dal disco Briganti. L'anno lo leggi tu? Per l'anno lo leggo io, sì, Briganti, no, ma 2010, sì. Ci apriamo sempre i concerti. Milizia, mettiamo adesso, Milizia. Anche questa tragicamente attuale. Di cosa parla Milizia? Parla... C'era Gabber, io mi sono ispirato parecchio a lui per il testo, è l'unico testo che non ho scritto da solo, perché sta scritto da me e da Fiore, il nostro ex chitarrista, quello che c'era prima di Angelo. E praticamente parla del periodo che stiamo vivendo. C'era Gabber che diceva tutti i popoli del mondo stanno premendo sull'impero o qualcosa del genere. Adesso vabbè, un po' emozionato, non mi ricordo la frase precisa. Ci siamo ispirati a questa cosa, perché un momento in cui ci sono fortissime correnti migratorie, un momento in cui si vedono pericoli dietro ogni angolo, dove non ci sono pericoli ne creano. C'è una pressione fortissima dei mass media per creare il terrore. Insomma, ci sono, con nuovi mezzi si cerca di creare quello che in altri tempi si faceva con mezzi, che non so, posso dire bombe, per fare un paragone forse un po' esagerato, però in sostanza cercano di terrorizzare la popolazione per poterla governare meglio in un momento in cui siamo sempre più poveri, il lavoro quando c'è sempre più precario, i beni sono sempre più costosi, i soldi sono sempre di meno, per cui parecchia gente si indebita, magari apre un mutuo per una cosa, un finanziamento per il computer, un finanziamento per un'altra cosa, siamo sempre più strangolati, però il pericolo è l'ultra, il pericolo è l'immigrato, e questo Islam che fa paura. No, insomma, ne sappiamo qualcosa dalla cronaca capitolina di questi ultimi giorni. Sì. Ne parlavamo prima a microfoni spenti dei fatti di Tor Sapienza, insomma, quindi giusto appunto. E quindi da Briganti, la seconda traccia, Milizia, loro sono i Razza a Parte. Tra i reati comuni e i reati politici sempre più si assottigliano le distinzioni, che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Se io fossi delle sue stesse idee politiche, lei avrebbe subito trovato le ragioni della mia innocenza. Vabbè, come le cose nascono un po' spontaneamente, chiacchierando, e mi veniva in mente un altro pezzo di un gruppo di vostri amici. Sì. Chi saranno, chissà. Ma cioè, abbiamo avuto ospiti recentemente qui a Radio Onda Rossa. E loro sono di Assedio, questo è il Lavoro Salariato, poi continuiamo le chiacchiere. Dopo 3 mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente. o meglio, si incazzò come una bestia. Allora mi ha sempre preso per il culo! Chi ti ha sempre preso per il... Ma loro, il patronato, le multinazionali, per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni. Che farà lavoro per te, atto creativo, esaltazione del talento umano. Ma sei subordinato, sei soggetto a fruttore, è un furto, una truffa. Una vita passata a lavorare solamente per farli arricchire. Progresso e non tecnologie per uccidere la produzione, migliorare ma non farsi spendicano. Intanto schizzante, panierato, svuotato, fino a farti sembrare un automa, sempre meno specializzato. Sei solo un pezzo del marchingegno. Una vita passata a lavorare solamente per farli arricchire. Allora, questo era un pezzo degli Assedio, uno dei gruppi che forse fanno parte della nuova rinascita della scena viterbese. No, beh, l'aggancio era sulla scelta, insomma, di usare degli intro che provengono dalla cultura cinematografica popolare, insomma. Questo era l'aggancio col pezzo precedente. La vogliamo raccontare un po' sta citazione e il motivo pure per cui uno, quando comunque deve fare, io penso, da parte vostra, la cosa importante, la maggior parte delle cose innanzitutto sono cantate in italiano, sì. Quindi c'è un intento, a parte qualche cosina, qualche cover, mi sembra ricordare, è tutto cantato in italiano, quindi una credo di ravvisare una volontà di voler comunicare con, appunto, le proprie radici, il proprio territorio, sì. La gente che te sostiene, insomma, e in primis, e comunicare come, cioè utilizzando anche dei mezzi, quale quello di ricorrere ad esempio a dei pezzetti di film che più o meno sono conosciuti, più o meno sono importanti. Ecco, quindi questa esigenza, questa impellenza di voler dire delle cose che fa parte poi alla fine del genere che fate, cioè quando uno decide, appunto, di fa punk, di fa voi, decide di dire direttamente delle cose senza troppe mediazioni, sì. Ecco, un po' raccontateci come, a livello compositivo, se così si può dire, uno si inventa queste soluzioni. Soluzioni intendi tipo intro, cose del genere? Ma solitamente la maggior parte penso di averle trovate io, credo. Solitamente quando sta per uscire un disco, stiamo preparando i brani, magari sto vedendo un film e dico questa qua, questa ci sta bene. Penso siano, sì, anche coincidenze, cioè sì. Puoi esprimere al meglio tutto, magari manco ci pensa e viene da solo la cosa, viene da sola. Sì, vabbè, un certo amore per il cinema, però anche se non siamo esperti, quindi non ci fate domande difficili perché ci mettete in imbarazzo. Però sono esperto di cinema. Tu sei esperto in qualcosa? In Idiozia, sì. Allora, quella è una cosa buona. Possiamo fare delle domande. Campioni. Campione di Idiozia. E come non citare un... No, l'abbiamo già citato, quindi come non ricitare... Vabbè. E la cantina del Goio. Che cos'è la cantina del Goio? La cantina del Goio. Allora, Goio in dialetto significa scemo? Pazzo. A pazzo. Più pazzo, no, però no. È un termine un po' ambivalente, perché lo può dire in maniera scherzosa. Lei sa Goio, significa sei un mattacchione. Oppure sei proprio Goio, che significa tu mi stai per una papagna, perché è tipo pazzo, però è più offensivo. È difficile da spiegare fuori dal contesto. La cantina del Goio è una tipica cantina della Tuscia Viterbese scavata nel tufo, sotto casa di un nostro amico... chiamato Magnacocce, nome d'arte penso. Però no, la cantina de Magnacocce, io non ci sono mai stato, ci verrò perché mi ha incuriosito talmente tanto sta cosa. Però non sembra proprio nel centro di Viterbo, almeno dal video. Vetralla, perfetto. Perché vetralla, c'è, sì. Se vede campagna, alberi, prato, insomma. Sì, è il primo paesino sulla Cassia Sud. Sì, no. Ed è proprio una cantina. Scusa, va interrotto. No, proprio c'è il torchio di quelli vecchi a muro. Sì, era una cantina. L'acustica c'è magari... il tufo c'è. C'è il tufo. È scavata nel tufo, sì. Che costituisce anche le fondamenta della casa. Le fondamenta. Con Assedia avevamo proposto una cosa che sì, era. Che no, era no, oddio, non mi ricordo la, più. La creazione delle definizioni tufo core. Tufo core, non mi ricordo. Me l'aveva detto infatti Marchetto questa cosa del tufo core. Tufo core, insomma. Potrebbe andare, sì. Potrebbe andare. E... guarda, è un caso, niente di preparato, guarda, proprio. E... mandiamo appunto un pezzo dei Placcaggio che si chiama Cantina del Goio. Questi erano i Placcaggio dalla provincia romana di Colleferro. Poi nel corso degli anni si è andata un po' a creare questa sorta di asse tra i gruppi della provincia intorno a Roma con quella che era la scena viterbese, no? Sì. Ci sono state insomma collaborazioni, concerti, uno scambio di energie. Pure di fare uno split noi e Placcaggio proprio per rinforzare tutto ciò. Vediamo però i tempi, vediamo un po' come va. I soldi, tutto il resto, però si farà. E ricordiamo pure la scena, la scena di Colleferro e dintorni. Sono stato testimone di una bella serata a Paliano, al Paliano Hardcore Fest, con gruppi anche della scena viterbese e non solo. E insomma, no, ho potuto testimoniare insomma la sinergia che c'è tra i gruppi di provincia. È stata una bella cosa, insomma. E già sotto va un altro pezzo dei Razza Apparte da Tu Shaoi. Ma sapete l'anno per caso? 2010. Preparati. È dello stesso anno dei Briganti, però avevamo voluto fare un secondo disco. Infatti questo è un EP più che un album, lo stesso anno, perché Briganti in realtà speravamo di farlo uscire l'anno precedente. Ci siamo trovati a far uscire Briganti quando erano anche 15 anni di attività nostra. Immediatamente abbiamo fatto uscire Tu Shaoi apposta per festeggiare i 15 anni di attività. E finalmente ce l'ho fatta a suonarci le chitarre sopra io. Sì, quindi questo è il primo lavoro con Angelo alle chitarre. Studio, sì. Hai capito. Però anche se ci suonavo da molto prima. E quindi da Tu Shaoi del 2010, Ferento. Questa era Ferento, canzone dedicata alla città distrutta di Ferento, quindi sì. un altro pezzo che va a rimarcare le radici territoriali dei Razza Apparte. E quindi su Tu Shaoi del 2010. Cosa rimane per te? visti di recente per qualche fortunato i Rats a parte in quel di Sparta con Red Max e Bull Brigade? Concerto affollatissimo, io non sono riuscito a entrare. Com'era la temperatura dentro? Anguille, tipo, io ero viscido. Vabbè, però siete formati a livello termico dalla cantina del Goio, no? Ma noi eravamo secondi, immagino placcaggio con Brigade avranno sofferto come candido. Proprio la sauna. Sì, la sauna. E concerti prossimi in programma? Non abbiamo concerti in programma perché stiamo lavorando ai pezzi dell'album nuovo, avendo appunto gli impegni non più di quando avevamo 20 anni, ma c'è chi ha moglie e figli, lavoro e cose. O prepariamo pezzi nuovi o facciamo concerti, per cui per adesso si lavora un nuovo album. E avete portato qualcosa dal cioè vedo lì un promo. Sì, il promo, questo sono i pezzi che appaiono su Costruito una Tuscia, più okay. C'è un remix alternativo di Caos. In Caos quella su Costruito una Tuscia canto io e fa la seconda voce Angelo. Ok. In questa versione è invertita e curiosamente, anche se lui è capellone e c'ha la barba, è venuta molto più voi. Hai capito? Oh, possiamo come Caos la seconda versione. Quindi la versione alternativa inedita. Sì. Di Caos, poi magari parliamo pure appunto di Costruito nella Tuscia. E questo è Caos, loro sempre, i Rats a parte. Insomma, questa è la versione alternativa del pezzo Caos dei Rats a parte, presente nella compilation Costruito nella Tuscia, presentata tra l'altro qui insieme ad Assedio. E che dire? Oddio. Vado io? Vai te, però no, mi sono emozionato. No, perché sì, no, perché comunque è un certo... talmente bella che si è... A un certo punto, infatti, vi vedo con le... No. Dicevamo appunto questo, Vi vedo con le facce sorridenti, cioè nel senso a un certo punto 25 o'clock significa più o meno che è l'ora rubata ai ritmi di consumo e della produzione, cioè un territorio libero dove uno finalmente, insomma, ha la possibilità di potersi esprimere in tutte le maniere. Noi lo facciamo magari mettendo i dischi e ci piace pure invitare qualcuno a condividere questo spazio con noi. Allora, detto questo, vedo, vi dicevo, perché a un certo punto poi uno stappa la birra, insomma, comunque l'atmosfera si fa tranquilla, cioè si comincia a conoscere e le facce si fanno sui denti. Però io ho invitato una punk boy band, insomma, non volevo troppi sorrisi, ovvero va bene, va bene. Sì, no, e poi la domanda era proprio quella, cioè progetto nuovo, disco nuovo, che cos'è che vi fa veramente incazzare di tutta la situazione attuale, di tutto il mondo, di tutto il modo di vivere, la situazione in cui in qualche maniera ci siamo ficcati pure da soli, insomma, o comunque ci costringono a stare quelli che stanno, che gestiscono, che manovrano tutte le noi come pedine. Che cos'è la cosa che vi fa incazzare di più personalmente, uno, due, tre? Personalmente penso il fatto che hanno cancellato proprio l'idea di futuro, nel senso che oggi nel 2014 arranchiamo proprio, si arranca come si dice, e ti deve aggrappare a quello che c'è giorno per giorno, nell'impossibilità di fare progetti per il futuro, nell'impossibilità anche di programmare cose semplici in breve periodo, perché non sai se lavori, quando lavori, se c'hai soldi. Per me almeno è questo. Gli altri non lo so. A me sa che mi fa incazzare che tutti, da parte più giovane magari come me, 20, 30 anni, dicono vabbè, allora vuol lavorare all'estero perché qui non c'era, cioè lasciando un po' magari la casa e tutti, magari anche costretti o non costretti, dici no, vado all'estero perché in Italia non c'è spazio per me. Cioè, lascia proprio l'amaro, me lascia l'amaro sta cosa, veramente. E più tra l'altro ti trovi che magari le stesse persone o persone simili sono quelli che dicono vabbè, ma vengono da noi a fare cosa? Esattamente quello che vuoi andare, sì, a fare all'estero. Sì, pure peggio, sì. Poracci, mica perché... Però sta cosa mi lascia veramente l'amaro in bocca, capito? No, questa cosa magari l'avete, cioè oltre insomma al trasferirsi all'estero, l'avete vissuta anche, immagino, tra tanti compagni, insomma amici della scena viterbese, che da Viterbo magari hanno lasciato Viterbo e si sono trasferiti a Roma o in altre città. C'è questa deriva, insomma, della popolazione viterbese di lasciare Viterbo per spostarsi. Sempre il discorso lavorativo quello lì, cioè che vuoi fa, cioè, non è una colpa, certo, di niente, certo, certo. No. No, amici stretti che stanno a Roma, forse no, forse nessuno. No, beh, io ne ho tanti ragazzi, sì, che hanno trovato posto a Roma, ma anche poi a Perugia o a Londra, ma anche a Milano. No, parlando d'Italia, cioè comunque sì, tanta gente si è dovuta spostare. Magari ecco, cioè c'ho la ragazza a casa, la vedo ecco una volta al mese, ah, ma mia madre non la vedo mai. È un peccato comunque sì, perché comunque lasci pure dei tasselli, cioè. Sì, sì, è sempre un'esperienza, insomma, per certi versi probabilmente pure valida, certo, bene, certo, perché comunque migrare è sempre un'esperienza, sì, di vita, però migrare è pure lasciare, sì, in qualche maniera, quindi lasci pure appunto in maniera dolorosa. Stefanino, che invece, dai, che ti fa incazzare? Qualcosa ci sarà che ti farà incazzare? Dunque, che cosa il, mi fa incazzare? Il primo punk non incazzato. Incazzare voi. Infatti, io sono felice. Infatti, uno può essere felice? Io sono felice. No, che cosa mi fa incazzare? Ovviamente i turni di lavoro. Esatto, bravissimo, quello tantissimo. Stasera devo stare a lavorare, invece sono venuto con voi, quindi scelta saggia. Saggissima. Bene. Perfetto. Vabbè. Feedback. No, no, vabbè, ma cioè, non è che la dobbiamo tradurre solamente in parole l'incazzatura. Sì, infatti, no? Anche in comunque la sezione è generale. Cioè, anzi, forse la dobbiamo tradurre più fisicamente. In fisica che non tradisce, sempre per rimanere in tema. No, qua intanto parte un coretto. Che è finito. Che è finito, vabbè. Perfetto. Partito. Oh, Come ci hai chiamati? Mi hai sentito? Panca bestia! Panca bestia, davvero? Ci riduci a una sottocultura e poi non sei in grado neanche di darle un nome. Bravo! E questo era il suono della strada, sempre dalla compilation Costruito nella Tuscia. Qua è ripartita Chaos. Però i Razza a Parte avevano scelto un altro pezzo da Tuscia Oi. Ce ne vuoi parlare, Flavio? Allora, è notte, possiamo dire brevemente, con un pezzo tradizionale viterbese, in realtà, anche se con qualche variante, è diffuso un po' in tutta l'Italia centrale. Ah, uno stornello proprio. Sì, diciamo uno stornello. La musica non ce l'avevamo, c'avevamo il testo, perché era sul libro di Francesco Petroselli, che è un professore all'Università di Göteborg di origine viterbese, grande dialettologo, e sul suo volume c'era questo testo. Angioletto, dico, come si può fare? È possibile ascoltarlo nell'osteria di Viterbo. Era possibile. Questo è quello che ti dicevo della freschezza del songwriting che dicevo all'inizio. Cioè, gruppo Oi, street punk, chiamalo come vuoi. Però in realtà ci stanno pure tante parentesi, questa è una palese proprio. Da Tuscia Oi, questa è Notte. È notte, notte, lo patron sospira. Come è stata curta sta giornata? Risponde il ragazzo de bottega. È stata curta un cazzo che te frega. Era il pezzo tradizionale dei Razza a Parte. Noi volgiamo alla mezzanotte. Per chi vi volesse contattare, insomma, avete un sito di riferimento? Beh, il sito è abbastanza morto, diciamo. La maggior parte dei contatti li teniamo attraverso Facebook, qualcosa attraverso Twitter. Comunque sì, ci trovate facilmente. Insomma, Razza a Parte su Facebook. Posso aggiungere ai noi? Quando se inventiamo una cosa alternativa a Facebook che non gli dà. Spero presto. Dovrebbe esistere, tra l'altro, però ancora non ha preso piede. Poi gli chiediamo qui, ci abbiamo degli esperti, vabbè. Ne parleremo. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo veniva prima o dopo aver suonato elettricamente con gli strumenti, cioè pre-sbornia, post-sbornia, durante la sbornia? Alcuni dei pezzi più tradizionali c'è stato un contributo importante di Fiore, il nostro ex chitarrista che suona folk a livello professionale, con il duo Rock e Benigni. E in parte per il resto quello che ha fatto. Come si chiama il progetto? Duo Rocca e Benigni, che sono cognomi suo e dell'altro ragazzo. Fanno folk, suonano, girano parecchio e buon per loro. Quindi siamo contenti. Un'influenza naturale proprio. Professionisti proprio. Infatti c'è le parti di organetto sardo che si avete sentito sono fenomenali. Cioè, Fiore, una Fiore, take suona. Buona, perfetta. Infatti aveva suonato con noi anche dopo essere uscito dal gruppo, sempre per amicizia e poi perché c'era questo discorso folk che gli interessava. E niente, dopo questa parentesi folk, insomma, passiamo al pezzo di forse di maggior successo dei Rezzo a Parte, perché insomma, forse non tutti lo sanno, avete partecipato al Maurizio Costanzo Show, è vero? questa è storia, no? Beh, c'è stati Boned sul Maurizio Costanzo Show, i Rezzo a Parte pure ci potevano stare. Certo. E tra l'altro è declamato in quello che sentirete. Eh sì, questo da il pezzo, insomma, di il pezzo storico proprio di storia della televisione italiana, che della B2, non è roba da poco. Certo. E quindi ritorniamo sul Drago e Leone del 2007 e questo è proprio Maurizio Costanzo Show. Ci ha detto show! I know you're out there. I can feel you now. E ricordiamo questo 14 novembre. I'm going to hang up this phone. Sciopero sociale generale. I'm going to show them a world without you. Scioperiamo Expo, no Expo. L'appuntamento è a Piazza della Repubblica dalle ore 10. Sì, ci saranno tre manifestazioni nazionali e appunto uno sciopero per chi lavora, ma anche per chi non lavora, anzi per chi non lavora, ma anche per chi lavora. Non so quale ordine mettere, comunque di fatto è quello, è uno dei tanti tentativi che si fanno in questo periodo appunto di alzare la testa, comunque di far sentire la propria voce, la nostra voce, e niente, quindi gli appuntamenti poi li troverete tra l'altro su vari blog su internet, ce ne stanno diversi la città, comunque a Roma Piazza Sedra ore 10 più o meno giù. Giornata del 14 e poi... Mi chiamare fascio perché combatto reazionari in ogni stampo. Dopo l'occasione dello sciopero generale che nasconde fascismo, c'è un appuntamento alla SNIA, un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa, e quindi a partire dalle 20:30 ci sarà una cena a sostegno della radio, dove verranno proiettate le immagini dell'archivio storico di Alfio Di Bella e quindi sulla storia della radio dal 1977 al 1982, e poi a seguire il concerto di Tribù Acustica e Scasso, e quindi un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa. Non mi chiamare fascio perché combatto razionari d'ogni stampo. Lo vogliamo dire contemporaneo in qualche maniera di un'altra iniziativa che ci interessava molto, che è quella appunto che si terrà poi in quel centro della strada due giorni, il 14 e il 15, in cui tra l'altro suoneranno un'altra delle, forse la band, anche se non con la continuità di cui dicevamo prima, appunto la band skinhead italiana per eccellenza, che sono in Abbat da Bologna. Eh sì, una due giorni che avverrà insomma tra la strada e Contubernum, quindi una due giorni che raccoglie un po' la storia dello street punk, dell'OI, quindi tra gruppi storici e gruppi nuovi. Noi appunto volevamo chiedere ai Razzaparte, visto che sono attivi da quasi 20 anni, qual è insomma il consiglio che date ai gruppi nuovi che insomma stanno emergendo e che stanno avendo anche un discreto successo, insomma, no? Insomma, 20 anni di storia vostra, cosa vi sentite di consigliare a questi gruppi, insomma, anche per magari non fargli montare la testa? Fate quello che avete voglia di fare, non abbiate quei giudizi sulla musica, buttate giù con gli scarponi se vogliamo andare su due classi con qualsiasi barriera, e noi è la musica nostra, è quello che abbiamo, non è un modello a cui ci dobbiamo adeguare. Chi ci riconosce noi nella cultura skin e nella cultura punk, non è che diventi, devi fare, non devi copiare, lo devi vivere, insomma. Però senti gruppi ori, li senti una volta o due volte, poi non li senti completamente perché di nuovo. Perché magari non hanno una grossa cultura musicale e si limitano a copiare altri gruppi ori. Se non conosci il rock and roll, loro non ti verrà mai bene, questo è un esempio. Benissimo, benissimo. Ti senti schiacciato? Noi mezzanotte 8 minuti. Andiamo a salutare e ringraziare i Razzaparte di esserci venuti a trovare. Insomma, fateci sapere insomma di vostre future iniziative e rimaniamo in contatto. Grazie a voi. insomma, facciamo che questo, insomma, questa chiacchierata sia l'inizio di una relazione, insomma. Lo scopriremo solo vivendo. E allora un saluto ancora ai Razza a Parte. Grazie. Mi raccomando, col disco nuovo che uscirà non so bene quando, però ci state lavorando sopra, fatevi sentire, perché insomma, bella. Noi continuiamo un po' il discorso di tradizione. Anche qui a Roma abbiamo le nostre radici. E con lei più niente. Ci stiamo riandando in fissa, eh? Solo vedere. Da 100 celle, Destroy Your System. Questo appunto dal disco che è Orgoglio Punk. E questo è appunto Orgoglio Punk, Destroy Your System, 25 O'Clock, Radio Onda Rossa. e noi dalla capitale ci spostiamo ad Ascoli Piceno. Questo da un disco del 2012 degli Effluente, Il sogno della merce. E questa è Nella stanza. Yeah. Abruzzo un film, una telenovela che ho già visto un milione di volte e m'ho già staccato. Come te, che non sei andato indietro e avanti. Non sei andato indietro e avanti. Faccio come la politica e le sue risposte. Come la televisione quotidiana di un veleno che dice poco a poco. Ma mi fido, è tutto fatto. Come te. Sei comunque solo. Credimi, non ho più un cazzo da dire. Come te. Questi erano due brani estratti dal disco intitolato 2003 degli Skriniars. Sono stati appesi. Band disciolta di Milano. Noi ritorniamo su Milano. Già stati pianti. E tutta questa gente. Loro sono i Kalashnikov. E questa è la fabbrica dei morti. Vedere. Gas Chamber. Fa un po' un anagramma dei suoi gruppi precedenti, Squad 21, dopo i Guns 21. Guns Chamber scomparso ormai da un bel po' di anni, e dopo che abbiamo ospitato Razza a parte David Erbo, andiamo quindi alle origini dello skinhead punk. Da capo, 1 minuto e 31 secondi o poco più. Questo è Antisocial. Sì, da capo. Antisocial! Sì, perché la cultura di strada che tante volte andiamo a raccontare qua a Radio Onda Rossa è fatto di questi ritmi. Fiata è fatta di bianchi e di neri. È fatta di gente che lavora nelle fabbriche e nei cantieri. È fatta di gente che lavora con le mani, uomini e donne. È fatta di gente, uomini e donne, che quando il mercato del lavoro non ne richiede più l'opera, diventa disoccupata, diventa precaria. Qui da noi veniva chiamata classe operaia. Nell'idioma invece anglosassone, working class. Ed è working class sempre. Nel caso in cui abbia un contratto di lavoro, abbia un posto fisso o abbia un posto precario a termine, a scadenza, oppure non abbia proprio nulla, oppure lavori in nero, oppure si arrabbatti, insomma, si svolti la giornata in qualche maniera, magari pure con qualche cosetta che è legale, proprio non è. E questa la tippa. E quando parliamo di odio di classe, almeno oggi, non parliamo appunto dell'odio che ha la working class per coloro che invece non hanno bisogno di lavorare, ma parliamo di coloro che non hanno bisogno di lavorare, che hanno un autentico, vero e profondo rispetto per la working class. Stiff Little Finger, Bloody Dub. Still this record, still this record, still this record, don't buy it. Still this record, still this record, still this record, don't buy it. Got no money, I'm feeling down. I can't find it when I want it around. I see that record, I want it so much. I think I'll take it and try my luck. I'm in train and I don't think they noticed. I'm out the door and I'm on my toes. I hear a scream but they won't catch me. I'm a punk, this is anarchy. Don't buy it, don't buy it, don't buy it. Steal this record, don't buy it, don't buy it, don't buy it. Steal this record. Records on the internet. I haven't paid for a record yet. I tape them and I give them to my friends. Keep ahead of the latest trends. Don't buy it, don't buy it, don't buy it. Steal this record. Don't buy it, don't buy it, don't buy it. Steal this record. Ruba sto disco. Vedi quando dici l'ora libera dai ritmi del consumo e della produzione. The business. Ancora skinhead. Ah! segna 164 battiti per minuto. Il lettore di CD di sinistra, quando ha Fuck the Systems. Per quanto riguarda gli Exploited, manco la techno più spinta, forse 180 battiti al minuto, è praticamente il jungle, quello pesante, spintissimo. Invece questa è tutta roba fatta a mano, niente drum machine. Twenty-five years of Anarchy and Chaos si chiamava questo disco, che ormai è datato, quindi immaginate di quanti anni fa sta roba qui degli Exploited. Ne parlavamo prima, invece Classe Criminale, ma non ho capito perché non lo dovevamo citare, però ci sta. Classe Criminale, dalle terre alluvionate della Liguria. Si chiama Skunk da capo. Anche di loro, penso, mi sembra, perché poi si confondono le cose, a microfoni spenti ne parlavamo. Vecchia produzione del collettivo romano, invece questa volta collettivo effimero, durato solamente la durata di una manciata di mesi, un anno o poco più. Roma Calling. Loro sono i Prisoner. Questo è Real Punk, un altro inno. Real, almeno a livello così metropolitano romano. Real Punk, Real Punk. Real Punk, Real Punk. Da capo. Real. 06 491 750, Onda Rossa. Questa è musica di strada. Real punk, real punk. sette. Real punk, real punk. Real punk, real punk. Real punk, real punk. Real punk, skin e punk. Musica per noi sfruttati. Prisoner, quindi, più o meno dalle parti di qui, di Portonaccio, la Tiburtina, insomma. Anche se crediamo Prisoner non siano più in essere, però ci dovrebbe essere un gruppo nuovo, gli Hangover, di cui avevamo qualche notizia. E no, vedremo di recuperare i contatti con gli Hangover, perché ce li siamo persi. Sì, pare che facciano proprio punk rock di quello, insomma, genuino e sano, ed è una cosa che alle volte un tassello che ci manca qui da queste parti, e noi facciamo collezione, però, come dire. Però, insomma, come facevamo, scusa? Un po' collezione. Un po' collezione, sì. Ma niente, no, sono un po', lo diciamo. Cosa? Mercoledì prossimo cosa accade? Certo. Me l'ho scordato. Cioè, sì, allora, se tutto gira, sì, se tutto gira per, noi adesso tra l'altro andiamo a prendere i contatti e le definitive. Comunque, se tutto gira a dovere, tre ospitoni proprio, niente. Allora, iniziamo da dagli ultimi. Sì. Dagli ultimi. Beh, bello, iniziamo dagli ultimi. Iniziamo. E lo faremo pure, facciamo, iniziamo dagli ultimi. Iniziamo dagli ultimi che hanno sfornato un bel dischetto, uno split, però un album split. Quindi nuova generazione, nuova generazione, non nuovissima, diciamo, non proprio di Pino Pino. Ricordiamo Automatica Aggregazione, il Sabazia o i Pancoi del lago di Bracciano, insomma. Che si incontrano su vinile con i Claxon. Con i Claxon, che invece è band storica romana dagli anni 80, praticamente stiamo parlando veramente delle radici. Quindi con questa scia di incontri. E già qui potremmo pure chiudere, ma non chiudiamo. Però aggiungiamo che ci incontreremo con loro. Ci incontreremo con loro. Qui presenteranno loro lavoro. E poi avremo. Si incroceranno. Vabbè, si incroceranno. Con. Vabbè, ci abbiamo una telefonata. Vabbè. Una telefonata. Faremo una telefonata, insomma. Vabbè, diciamo con inchiostro. Una telefonata ben evidente. Ben evidente. Fatta con inchiostro ben evidente. Io lo vorrei dire. Diciamo. Eh sì. No, vabbè, è uscito da poco un libro che è come Macchine Impazzite. Mm-hmm. Che è tra l'altro una citazione, esatto. Ovviamente. E già qui dovreste aver capito. E un libro così credo esce per adesso ogni 30 anni. Sì. Beh, per adesso ogni 30 volume, anni. Poi un tomo ogni 30 non anni. Non sappiamo se ne uscirà un altro, però è sulla storia. Ma sì, ma sicuramente. Sì, sì, sì, sì. Noi staremo qui. Sicuramente. Vabbè, io starò qui eternamente, insomma. Vabbè. Ragiono in migliaia di anni. Cioè, ragiono. Non posso ragionare perché non ho un cervello. Ti posso chiedere di accendere intanto, sì, che ragioni? Va bene. Sì, niente, no, comunque vabbè, noi inquiniamo tutto con le nostre idiozie. E mercoledì prossimo presenterà questo libro di Kina, quindi sulla storia di Kina, scritto proprio da Giampiero dei Kina. E con non ricordo l'altra Sergio. Autrice. No, no, quello è Sergio dice. Milani. No, pensavo no, io che non lo so. È uno non... scrittore, Sergio Milani. E a te potrebbe anche interessare. Perché il primo, credo che sia uno dei primi libri. Sembra Tabula Rasa. Sì. No, uno dei primi libri di Sergio Milani. Sì. Li ha fatti, mi pare, sui sentieri storici della Val d'Aosta. Sì, sì. No, lo troveremo allora, sì, senz'altro. Sì, sì. E comunque, avremo Giampiero Dei Kina in via telefonica. In via telefonica ci presenterà questo libro. Vabbè. Questo libro che vabbè, e noi vogliamo così aggiungere. Siamo no, vabbè, emozionati, insomma, orgogliosi. No, nel senso, se ci ascoltate almeno da un po' di tempo, insomma, ve ne sarete accorti del nostro amore dei Kina, insomma, vabbè, mi sembrava giusto dirlo. E proprio questo. A proposito d'amore, mezzanotte e 50, noi che cosa andiamo a mandare? Andiamo a New York, punk rock love. I saw a few pawnbrokers outside. They don't mind us ugly motherfuckers. This one goes to my lady who's expecting a baby. she obviously couldn't come tonight because she's very big. And this song is called Punk Rock Love. Casualties da New York, Punk Rock Love. Allora, ci siamo, abbiamo quasi finito. Bombarolo ovviamente da parte della banda Baciocchi dai Baschi, dai Euskadi e Ria. Allora, i ritmi sono assolutamente rapidi. Noi andiamo a chiudere e vi diciamo appunto che 14 novembre si terranno manifestazioni a, da Torino, Genova, Milano, Brescia, Padova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Pisa, Lucca, Massa, Carrara, Siena, Cagliari, Terni, Pescara, Napoli, Salerno, Campobasso, Bari, Taranto, Cosenza, Catania, Palermo, Siracusa. E ovviamente da Roma, almeno per quanto ci riguarda da più vicino, fate sciopero, scendete in piazza. E la sera, la due giorni della strada e soprattutto l'iniziativa per il sostentamento di questa emittente, perché Radio Onda Rossa non campa d'aria, per cui centro sociale ex SNIA Viscosa in via Prenestina. Scasso e tribù acustica, nonché quella che è la proposta che facciamo noi della radio da un po' di tempo, cioè per cominciare i video che sono dei primi anni, che si riferiscono a quelli che erano i primi anni di Radio Onda Rossa. Quindi salutiamo tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato, salutiamo soprattutto e iniziamo con grande partecipazione e calore i Razzi a Parte che hanno riempito questa, questa notte di Radio Onda Rossa. Ci risentiamo mercoledì prossimo con le, con un po' d'emozione, insomma, per quello che andremo ad ospitare mercoledì 21. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro che sono costrette a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE. Vi lasciamo in compagnia della compagnia automatica Zara che vi terrà appunto, com'è un sinonimo di compagnia, vi terrà, vi starà vicino la compagnia automatica Zara fino a domattina, quando ricominceranno le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa, la radio delle lotte, la radio di chi lotta. Lettura prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadina, trilla lo 06 49 750. Questa è la telefonatina che ci ricorda di dire che venerdì non solo succedono tutte queste cose, ma venerdì pomeriggio alle 2. Che cosa c'è? Uno spazio comunicazioni? Ma no, no, non c'è niente, non c'è niente. C'è proprio niente. Niente da venne proprio. Non c'è niente da venne. Niente da venne. Che ci tocca, faccio tocca a te. Salutiamo il conduttore di Niente da Vendere. Sì, il conduttore. No, invece parliamo del palinsesto di domani, appunto, con gli aggiornamenti dalla città al resto del mondo, il GR delle 13 e poi via via tutto.